cuore che già il respiro, strani pensieri corrono sul sentiero, lasciami correre in un giorno di sole, lasciami correre senza farmi cadere, come dolce star qui ad aspettare, come dolce star qui senza niente da fare. Sulla strada c'è qualche luce ancora accesa, sulla strada c'è